Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 2-1 per la Roma sul campo. Fuori il bilancio lo ricavo da ilmessaggero.it, che per competenza territoriale mi sembra in questo momento il più autorevole. Quindi, ripeto, 2-1 sul campo, fuori del campo 6 arresti, 56 denunce in stato di libertà, 57 persone sottoposte ad ASPO, 37 bombe carta sequestrate, oltre a spranghe, tirapugni, passamontagna e fumogeni. Complessivamente sono state effettuate 61 perquisizioni, di cui 11 delegate dall'autorità giudiziaria. Per tacere di un assalto al pullman della Lazio con il dirigente Manzini ferito subito prima della partita e un ragazzino quindicenne accoltellato. Su questo torneremo più tardi con l'aiuto di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, anche se questo è l'argomento che già ricorre nei vostri sms che, come spesso accade, precedono la messa in onda del programma. Per esempio Omar da Bologna scrive: Maroni ha già indetto una conferenza stampa per raccontare che ieri non è successo nulla e che è stata un'altra grande vittoria della testa del tifoso? No, al momento non risultano conferenze stampa convocate. Se invece parliamo di pallone, allora un attimo di pazienza per Roma-Lazio e per Sampdoria-Udinese, perché la precedenza va evidentemente al recupero di campionato. Allora, cominciamo dalla sofferenza che Leonardo racconta in questa conversazione. Buon approccio alla gara è stato così come contro il Bologna, ottimo, ottimo. La squadra girava, trovava soluzioni in avanti, squadra compatta, abbiamo trovato due gol e sicuramente girava tutto per il meglio. Purtroppo anche il cambio ha cambiato un po' il volto della partita. In quel momento lì abbiamo preso un gol, dopo il secondo, però la squadra ha avuto una forza enorme di andare ancora in vantaggio all'intervallo. Quello è stato sicuramente la chiave della partita per una gestione più serena nel secondo tempo. Nel secondo tempo pochissime azioni, c'è stato più con la difesa schierata, la squadra ha concesso pochissimi contropiedi. Primo tempo abbiamo avuto più difficoltà, perché con il 2-2 è vero che la squadra ha sofferto. Ha sofferto perché faceva fatica di ritrovare gli equilibri, le distanze, ci siamo allungati, lì sì, è stato il momento più difficile. Il cambio a cui Leonardo alludeva era quello di Diego Milito, uscito al 20° del primo tempo dopo aver segnato il gol del 2-0 per un risentimento, leggo adesso la diagnosi di stamane, per un risentimento di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. La prognosi, sempre dopo gli esami strumentali cui è stato sottoposto stamattina, è di almeno una settimana, nel senso che Milito salterà certamente la partita di domenica a Udine, mentre non è escluso, dice la notizia d'agenzia, un recupero per la trasferta a Napoli di mercoledì prossimo per i quarti di finale di Coppa Italia. Non l'ha presa benissimo il Cesena, non tanto per, sono stati chiamati in causa episodi a parer mio in maniera anche un po' pretestuosa, in mani di Chivu in area, era reale ma è evidentemente involontario perché frutto di una carambola ravvicinatissima, mentre invece ha fatto molto discutere, a me personalmente anche un po' ridere, l'espulsione di Giaccherini. Allora sentiamo in materia proprio l'opinione del diretto interessato, del piccolo giocatore del Cesena. Ah, dispiace saltare tutte le partite, è normale. Ci tenevo molto sicuramente a giocare anche col Milan, però penserò a Lecce. Ma il primo giallo sono stato toccato da Materazzi, poi dopo magari ho accentato un po' la caduta, però secondo me l'espulsione è stata un po' eccessiva. Io, come ho detto prima, non ho sentito il fischio dell'arbitro, quindi sono andato dritto a calciare. Sicuramente se succedeva a un giocatore dell'Inter non veniva espulso, questo sì. Beh, questa è la sensazione che rimane, no? Dell'Inter, del Milan, della Juventus, della Roma, cioè questi sono gli esercizi di autoritarismo da parte degli arbitri contro le piccole squadre e le piccole società. Poteva starci forse la prima ammonizione per simulazione, Giaccherini ha dato questa versione della dinamica della prima ammonizione. Può essere così, può essere che invece insomma questa ammonizione ci potesse anche stare, non ha molta importanza, la seconda è ridicola, nessun arbitro avrebbe sanzionato la seconda ammonizione se appunto Giaccherini avesse indossato un'altra maglia anziché quella di una piccola società di provincia. Da questo punto di vista hanno tutte le ragioni i cesenati stavolta e le piccole di provincia per l'appunto in altre a lamentarsi. Adesso il derby di Roma nella sintesi dei due allenatori. Cominciamo da Ranieri che l'ha vinto. Sì, è stata molto bella il nostro il secondo tempo, il primo è stato ad appannaggio della Lazio, bisogna riconoscerlo. Abbiamo subito un po' quell'infortunio ad inizio gara su Adriano, gli è uscita la spalla, gli è stata rimessa a posto, però il dolore persisteva, per cui ho aspettato tutto il primo tempo proprio per vedere come andava e poi ho preferito toglierlo e mettere Menez e Vucinic nel secondo tempo. Dalla parte di chi l'ha persa, indubbiamente una sconfitta amara, anche perché sul piano del gioco assolutamente non meritata la sconfitta laziale. Sentiamo Rey. È una costante, però non c'è niente da fare, la buona sorte gira sempre dalla parte loro, però resta il fatto che noi abbiamo fatto una buona prestazione, ho ritrovato la squadra, lo spirito giusto, forse meritavamo miglior sorte sicuramente per quello che abbiamo fatto vedere in campo, eravamo molto più reattivi di loro, però loro c'hanno sempre qualche qualità, poi c'è stato l'inserimento di Menez nel secondo tempo che è quello che ci ha creato qualche problema, però ci può stare, se avevamo un po' più di determinazione in fase offensiva, perché qualche palla l'abbiamo avuta, però abbiamo fatto una buona prestazione, dai. Se c'è una cosa che Rea non ha molto digerito è l'atteggiamento di Zárate, e non è la prima volta e non è affatto infondata, a parer mio, questa sua presa di posizione. Sentiamolo in particolare in questo passaggio, che è anche divertente oltre che significativo. No, lui ha grandi qualità, la convinzione che salta sempre l'uomo, però il calcio si gioca in 11, bisognerebbe avere più palloni, invece questo non va assolutamente bene, se non comincia a giocare con la squadra è chiaro che dovrò prendere dei provvedimenti. Deve avere più palloni, uno per Zárate, no, che se la gioca, se la canta, se la suona, e poi uno per... Uno per gli altri anche, e questa era una battuta divertente. Rey e Ranieri, e poi chiudiamo e passiamo ad altro, un battibecco, ma molto molto molto lieve, però nel merito della mancata espulsione proprio di Zárate in occasione del rigore per la Lazio. Poi guardate un'altra cosa, se è l'ultimo uomo sul rigore, quando sì, Zárate sta andando verso la porta, non so se era l'ultimo uomo, ecco, anche Cardellino era l'ultimo uomo. È esatto. Come succede spesso, sempre le cose vanno sempre da una parte, purtroppo. Sì, se fosse andato verso il centro della porta, esatto. Invece andava sull'esterno, se Rea venisse agli aggiornamenti con gli arbitri e tutti quanti, lo saprebbe. Vabbè, dunque la mancata espulsione evidentemente era quella non di Zárate o Zárate, ma di Juan. Temo abbia ragione Ranieri, temo perché lo dice con una certa iattanza questa frase sul fatto che Rea non partecipa alle riunioni di aggiornamento, però è vera, anche perché quando questa norma è stata introdotta, e parliamo del 91, è una delle poche che non è cambiata da allora nell'applicazione, e cioè, giusto o sbagliato che sia, se il giocatore che dribbla l'ultimo uomo sta andando verso l'esterno, non è calcio di rigore, cioè è calcio di rigore, ma non viene, non arriva l'espulsione, arriva soltanto l'ammonizione. Se invece sta andando verso l'interno, e cioè in direzione palese della porta, allora scatta l'espulsione. Nel caso di ieri sera Zárate stava andando in piena area, per carità, ma stava comunque dribblando sull'esterno. Primo intervallo di oggi, il traffico. Beh, basta un episodio come l'espulsione di Giaccherini per scatenare il tifo, no? Il solito arbitraggio pilotato pro grande, scrive Matteo da Pavia, quest'anno però non citerei anche la Juve come beneficiaria. Alberto, sempre la solita dietrologia italiana, ma ci siamo già dimenticati che l'anno scorso l'Inter ha finito alcune partite in 9. Beh, alcune mi sembra tanto. Primo, secondo, cosa c'entra se l'altro anno ha finito partite in 9 quando si parlerà di calcio? Questo è calcio, anche perché, come fa notare giustamente Walter da Ivrea, dice: sono interista, ma non riesco davvero a capire il motivo dell'espulsione, perché in quel modo, calciando il pallone in porta, Giaccherini ha fatto perdere tempo al Cesena, che stava perdendo, e quindi non ha cercato di ricavare vantaggio da una perdita di tempo. E questa è un'altra osservazione interessante. Ho detto che cambiavamo capitolo, lo faccio volentieri, come sempre, in compagnia di Marco Beninazzo del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Senti, ripartiamo da questo derby di Roma, poi c'è altro è all'ordine del giorno, perché ci sono, a proposito di Roma, aggiornamenti sul cambio di proprietà o comunque sulle trattative in corso. Ci sono penalizzazioni che hanno riguardato il Bologna, ma che hanno riguardato 19 società di Lega Pro, e sono penalizzazioni tra l'altro arrivate anche un po' indifferite, insomma, che hanno destato qualche perplessità, però direi che non si può non cominciare da quello che è accaduto. Si era detto ieri che insomma, sembrava questo derby era stato annunciato ed era soprattutto stato autorizzato in notturna, anche perché era una sorta di come dire, esame di maturità per un pubblico e per una città che negli ultimi anni problemi gravi, gravissimi di ordine pubblico legati al calcio ne hanno date. Mi pare che la risposta non sia stata quella che si sperava. Se c'è a questo punto coerenza nelle parole del ministro dell'interno, che in qualche modo aveva presentato questo match come una prova appunto di maturità per le due tifoserie, e dato l'esito negativo di questa prova di maturità dovrebbero scattare sanzioni importanti e esemplari. È vero che gli incidenti sono accaduti lontano dall'impianto sportivo, ma è chiaro che se quelle tifoserie continuano a darsela di santa ragione in ogni derby, bisogna intervenire in maniera drastica e severa, perché altrimenti tutti i discorsi sulla tessera del tifoso, sul pugno di ferro del Viminale contro i tifosi violenti finiscono per non produrre i risultati sperati e disincentivare ulteriormente le famiglie ad andare allo stadio. Ricordiamo che c'era stata anche una bella iniziativa, ne avevamo parlato qui, legata proprio al derby di Roma, con la tribuna aperta ai bambini, insomma. Chiaramente sono segnali poco incoraggianti, insomma, purtroppo non sono sorprendenti per quel che ci riguarda. Anche il sindaco Alemanno stamane rete inaccettabile che questo bel derby sia stato turbato da violenze da parte di gruppi di teppisti che nulla hanno a che fare con la sana tifoseria calcistica. Faremo domani il bilancio di quello che è accaduto, ma è assurdo che per una partita di calcio, per quanto importante, venga bloccato il traffico di un intero quadrante della città e che poi un ragazzo di 15 anni debba rimanere ferito, eccetera eccetera. Allora, io leggevo prima molti messaggi, per esempio uno lo ha mandato Walter, che faceva un po' di confusione a parere mio tra l'importanza della tessera del tifoso, tra il dentro e il fuori, eccetera. La tessera del tifoso è ovvio che è stata concepita per migliorare la situazione all'interno dello stadio, questo è evidente. Però qual è stato l'errore a parer mio, ma poi correggimi se sbaglio, quella di presentarla come la panacea contro la violenza in generale che circonda il mondo del calcio. Ora, supponiamo che abbia risolto i problemi all'interno, e su questo non ieri, ma insomma in altri casi magari si può discutere, però all'esterno come dire, ha depotenziato il lavoro delle forze di polizia. Beh, in teoria la tessera è uno strumento che serve a garantire, con il controllo degli steward e quindi non affidato alle forze dell'ordine, la sicurezza all'interno degli impianti sportivi. Tutto ciò che accade fuori è questione di ordine pubblico e quindi sono le forze dell'ordine che devono garantire in quel caso la sicurezza, e dunque la tessera del tifoso non c'entra assolutamente nulla con quello che avviene nelle vie adiacenti, così come quello che avviene negli autogrill, che sono stati spesso, come dire, fortini assaltati dai certo. tifosi in trasferta tuttora in qualche caso lo sono ancora. Dunque le forze dell'ordine dovrebbero presidiare all'interno, all'esterno degli stadi la sicurezza. All'interno degli stadi invece sono gli steward, tra l'altro il decreto legge che è stato approvato e convertito in legge a fine anno dovrà essere ora attuato dal Ministero, affidando nuovi poteri ausiliari agli steward all'interno degli impianti sportivi. Il problema fuori è di ordine pubblico, è inutile starci a girare troppo intorno. È di ordine pubblico e se sono queste forme di criminalità devono essere estirpate, si devono combattere come forme di criminalità che col calcio non c'entrano niente, ma seriamente non c'entrano niente. Certo. Marco, c'è di più, e c'è una radicalizzazione del problema in chiave strettamente romana. Ti cito una delle tante mail ricevute in argomento. Stamane Giovanni da Lucca scrive: io davvero non capisco. Possibile che in altri stadi si prendano provvedimenti severi per il lancio di una pietra o di un petardo, mentre a Roma tutto passa, coltellati, macchine distrutte, scontri con la polizia, e tutto si ripeta con sconcertante puntualità, senza che nessuno dica niente. Ecco, questa è la solita esagerazione, perché che nessuno dica niente non mi sembra. Perché? Si domanda Giovanni da Lucca e si risponde. Forse per rispondere basterebbe leggere la lista degli accreditati alla tribuna d'onore. Malizioso, come molto, spesso accade. Molto malizioso, però è vero. Ricordiamo che molti degli episodi più cruenti degli ultimi anni sono accaduti a Roma, intorno all'Olimpico e non solo. Ma ripeto, fare poi di tutta l'erba un fascio si finisce per non capire l'entità del problema e per quindi non fare nessun passo in avanti verso una soluzione auspicabile. Io credo che sviscerare questi incidenti dal contesto calcistico e individuarne la matrice di criminalità organizzata o meno, poi sarà la magistratura a doverlo stabilire, e quindi perseguirli in quanto tale, significa diciamo fare qualche progresso verso la soluzione del problema, altrimenti si finisce per confondere sempre l'aspetto diciamo di deviazione, di delinquenza rispetto a quello sportivo, e il problema non si risolve. Si dovrà chiudere l'Olimpico per una, due partite, tre partite, non so, forse può essere una soluzione, sicuramente un segnale importante che in questi anni non è stato dato. Mi ricordo di un derby bloccato dalle tifoserie, di assalti alle questure quando diciamo c'è stata la morte di un tifoso laziale, insomma episodi molto gravi, certamente non attribuibili alle intere tifoserie, ma quei gruppi sono conosciuti e sono noti, e in teoria con la tessera del tifoso per esempio negli stadi non dovrebbero nemmeno entrarci. Quindi un'opera anche di prevenzione, non solo di repressione, non che le forze dell'ordine e il Ministero dell'Interno non le stiano attuando, non ci stiano provando, però evidentemente non, perlomeno per alcune piazze non basta ancora, cioè ci vuole evidentemente, Marco, qualcosa di più incisivo, qualcosa forse di meno gradevole, forse di, adesso non voglio dire di meno democratico perché non vorrei esagerare, però... insomma, alla guerriglia, come dire, alla guerriglia istituzionalizzata si risponde con no? L'attività di estorsione ai danni della società è stata perseguita a Napoli dalla procura, ecco, che esempio. Ha creato un vero e proprio pool per i reati da stadio. Non mi risulta ci siano esperienze analoghe in altri tribunali, in altre procure. Un processo sempre per concussione ai danni della società e del Milan sta per iniziare tra pochi giorni a Milano. Voglio dire, i fenomeni di delinquenza vanno perseguiti come fenomeni di delinquenza. Semmai l'aspetto sportivo è un aggravante e non un attenuante, ma non si può ridurre tutto a violenza negli stadi. Questi sono fenomeni di criminalità, no, certo, che vanno perseguiti in quanto tali, altrimenti si fa solo confusione. Questo è molto vero. Tra poco torniamo con altri argomenti per i quali è richiesta la tua competenza specifica. Non so se abbiamo qualche voce da sentire o se andiamo direttamente invece a... Potremmo sentire brevemente, anche perché non è detto che poi ci sia particolarmente tempo, considerando i vostri interventi magari anche su questa materia, la vigilia dell'ultima partita di Coppa Italia che manca all'appello, che è Milan-Bari stasera, e che sarà saltata da Thiago Silva. Leggo da un'agenzia appena arrivata, Thiago Silva non è stato convocato per un disturbo intestinale, c'è scritto sull'ANSA, il che vuol dire che anche i giocatori sono come noi, e in questo periodo sono soggetti al flagello di un'influenza che colpisce indifferentemente la gola oppure anche un tantinello più giù. Sentiamo Allegri. Perché dopo alla fine, quando si ritrova in semifinale e in finale, allora tutti danno valore. Quando vinci un trofeo è sempre bello, quindi bisogna cercare di arrivare in finale, e per farlo bisogna affrontare la Coppa Italia con il massimo impegno, anche perché in questo momento dobbiamo ritrovare la vittoria dopo gli ultimi due pareggi, che sia Coppa Italia o che sia campionato, e siccome c'è prima la Coppa Italia va ritrovata. Stasera si vedrà in Milan-Bari, adesso noi ci fermiamo per sentire come va sui mercati. Oh, finalmente, scrive Roberto d'Arezzo, uno che sarebbe Marco Bellinazzo, che li chiama criminali e non tifosi, quindi hai riscosso approvazione con questa definizione, d'altra parte sacrosanta. Simone da Padova dice: spiace essere così diretto, ma bisognerebbe applicare le stesse norme penali anche in caso di eventi sportivi, e cioè se io tiro una bomba carta per strada non mi danno il DASPO. Non so se mi sono spiegato, secondo me sei spiegato benissimo, no? come idea, Marco. Direi proprio di sì. Senti, proviamo ad accantonare per il momento questo problema della violenza che nasce dal derby di Roma di ieri sera, e di aggiornare un altro paio di vicende interessanti. Beh, la prima la liquidiamo in fretta, ed è il passaggio di proprietà della Roma, perché qualche aggiornamento c'è. Sì, stamattina c'è stato un comunicato della compagnia Ital Petrori che ha ufficializzato questa nuova fase delle trattative, in sostanza le offerte ritenute economicamente più solide e anche per quanto riguarda il progetto industriale futuro della società sono state acquisite. A questi soggetti viene data ora la possibilità di conoscere più nel dettaglio i conti della società e le situazioni evidentemente che andranno risolte, dopodiché si dovrebbe arrivare a una terna o a un paio di nomi ai quali poi sarà concesso un'ultima fase, una sorta di finale. In che tempi è per il tuo? Guarda, si è andati già oltre un po' i tempi previsti, la delicatezza della situazione della Roma, che ricordiamo è anche una società quotata e quindi va tutelata in tutte le sue forme, anche con un maggior tempo nella definizione della procedura, comporterà a mio avviso ancora qualche mese di tempo. Però ecco, a questo punto è UniCredit, saranno gli advisor a decidere se una delle offerte, delle tre o quattro offerte che sono state per ora ritenute più importanti o più rilevanti, potrà, come dire, sopravanzare le altre e quindi magari accorciare questi tempi. L'importante, io credo, a questo punto, che le offerte siano serie. Ora un mese in più, un mese in meno non cambia nulla. Il futuro della Roma credo sia un bene più prezioso, insomma, rispetto a qualche mese in meno, insomma. Se ci sono un paio di ascoltatori che vogliono intervenire su questo argomento o su quelli precedenti o su quello che adesso introduciamo, sono ovviamente liberi di farlo. Quello che introduciamo è il seguente: nella scorsa settimana, nei giorni scorsi, sono arrivati 35 punti di penalizzazione per 19 società di Lega Pro. Allora, in ordine sparso, 5 li ha presi la Villa Citrese, 4 il Savona, 3 la Canavese e la San Giovannese, eccetera, eccetera, eccetera. E la cosa ha riguardato, per esempio, un punto l'ha tolto anche al Gubbio, che è la squadra rivelazione, credo, di tutti questi gironi, e che sta, nonostante la penalizzazione, è in testa è attualmente al comando per salire in Serie B. Che significato ha perché questa severità, che è vero, questa riguarda tutta l'Italia, no? Anzi, riguarda proprio l'Italia del calcio sommerso, non so come dire, no? di un calcio che non ha mai grandi ribalte, ma che arriva a rate, vuol dire che si fa un po' di fatica a capire se il calcio si sta dando davvero, perlomeno in quelle categorie, un senso di serietà, di applicazione di regole, eccetera, eccetera, oppure se magari è un po' più facile infierire su quelli più piccoli. Proviamo a fare innanzitutto un po' d'ordine, perché queste penalizzazioni che hanno colpito 19 società sugli 85, alle quali sono stati sottratti 35 punti, non riguardano gli stipendi non pagati o i contributi non versati, a differenza delle altre sanzioni che sono state irrogate qualche settimana fa, qualche mese fa, ad altre 11 società, sempre per una trentina di punti, e a differenza delle prossime che sono in arrivo, perché entro il 15 febbraio dovranno essere comunicati i dati, questa volta sì, di bilancio legati al pagamento degli stipendi, delle tasse, dei contributi previdenziali e diciamo di organi di vigilanza contabile. Probabilmente irrogheranno altre sanzioni, perché lo stesso Macalli ritiene che siano almeno una trentina le società che non supereranno questi controlli, che ora vengono fatti ogni trimestre, e tra l'altro saranno queste sanzioni da scontare in questo campionato, quindi rischia ulteriormente di falsare la competizione puramente sportiva. Certo. Dunque, fatto questo chiarimento, sì, non da poco tra l'altro, bisogna dire, io ieri sera ho parlato con il presidente Macalli, che era ovviamente imbufalito per questa sorta di accanimento che dal suo punto di vista si sta esercitando sulle società della Lega Pro. Le spiegazioni che lui dà ovviamente vanno ritenute buone, perché vengono da una persona assolutamente seria e professionale, scontano ovviamente l'amarezza del momento. La logica in cui queste sanzioni vanno lette, secondo Macalli, è più complessa, e cioè non riguardano soltanto questa nuova severità e questa nuova serietà che sicuramente la federazione sta esercitando nei confronti del cosiddetto calcio minore. Per esempio, alcune di queste sanzioni sono state comminate perché non erano stati comunicati gli addetti alla sicurezza, i nomi dei responsabili della sicurezza negli impianti, quindi sicuramente vanno apprezzate da questo punto di vista. Inciso, non erano stati comunicati in avvio di stagione. La penalità però arriva a gennaio, insomma, non... In genere la giustizia sportiva ha sempre avuto un pregio, in alto e in basso, quello di colpire in maniera, se non istantanea, in maniera immediata, no? Era questa che la rendeva un po' più credibile, anche quando magari certo. qualche verdetto era questo se vuoi risponderebbe a quella logica di accanimento alla quale si appella Magalli. Io cerco, come al solito, di avere un equilibrio nell'esposizione per cercare di far chiarezza in una questione che chiara non è. Fatto sta che la prossima settimana, lunedì o martedì, gli avvocati di Magalli, della Lega Pro evidentemente, presenteranno il ricorso presso gli organi di giustizia della federazione contro la Lega di Serie A, responsabile di tergiversare nella distribuzione dei soldi derivanti dai diritti televisivi che la legge Melandri assegna alla Serie C, alla vecchia Serie C, quindi alla Lega Pro. Lega in pratica Pro. Ogni anno il 6% di quanto ricavato dai diritti televisivi, e parliamo quindi di 60 milioni su un totale di 1 miliardo che è complessivamente le squadre di A ricavano dalla vendita dei diritti TV, dovrebbe essere assegnato alla Lega Pro e alla Serie B, con criteri che spetta in una prima fase alla Serie A decidere. Ora, gran parte di queste risorse, e l'accusa di Magalli, sarebbero destinate alla Serie B, mentre andrebbero pochi milioni di euro alle società di Lega Pro, che sono 85 contro le 22 di B. Certo. Contro questo spettro che si vada ad aggiungere alle difficoltà economiche che indubbiamente le squadre di Lega Pro stanno affrontando, comporterebbe sostanzialmente una sorta di baratro economico per tutte le squadre di Lega Pro, e contro questo baratro, per evitarlo, quindi per fermarsi un attimo prima, Magalli sta cercando quindi di proporre innanzitutto una riforma della Lega Pro e poi questa causa contro le società più ricche per ottenere, diciamo, una quota maggiore di diritti TV. Io spero di essere stato chiaro. Sì, chiaro. Anche se la materia non è semplice. Poi ci sono altre domande. Alessandro Milano domanda: ma scusate, la Propatria che sta fallendo è tutta in ordine? La Propatria non è citata in questo perché è stata differita, mi pare, no? È talmente grave la sua situazione che ne ha rinviata ai primi di febbraio. Un paio di ascoltatori chiedono di intervenire su queste materie. Per esempio Fausto Lalodi, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, buongiorno signor Marco Bellinazzo. Niente, io volevo chiedere una cosa, ma se per causa del fair play finanziario che impedisce acquistare giocatori di grido, come per esempio, facciamo l'ultimo esempio, Zeko, la Juve non l'ha preso, le televisioni si mettono a fare anche loro fair play finanziario, nel senso tu non mi porti più Zeko e io non tiro più quello che ti davo prima, cosa succede? E poi, visto che tutto lo sconquasso finanziario dovuto ai giocatori, agli ingaggi dei giocatori, perché è quello che assorbe tutto questo volume di denaro, non farebbe prima la UEFA o la FIFA o chi per loro stabilire dei contratti fissi su come puoi retribuire i giocatori e anche su come puoi regolare i vari trasferimenti? Certo. Nel senso, tre anni capito. Di contratto, 3 milioni di euro, faccio degli esempi con sì, dei sì, numeri giusto, a caso. Giusto per... sì, sì. Grazie Fausto. L'ipotesi del salary cap è stata scartata perché i giocatori non l'accetterebbero mai. Si sta cercando di fatto di introdurlo attraverso il fair play finanziario. È chiaro che porre paletti rigidi, e vedremo quanto saranno rigidi, alla possibilità di acquistare giocatori. Ricordiamo che le squadre mediamente in Europa spendono i 2/3 dei loro ricavi per i calciatori, in Italia si arriva al 72% secondo gli ultimi dati forniti dalla UEFA. È chiaro che, ci sarà un serio problema di attrattiva dei singoli campionati e dunque l'impoverimento verso il quale si può andare nei campionati che, come dire, dire, non, diciamo, per esempio perdono posti in Champions League, che è il vero forziere della UEFA, farà sì che nei campionati, insomma, che hanno meno accesso e che vanno, e le cui squadre vanno meno avanti in Europa, ci saranno meno introiti televisivi a lungo andare, meno campioni, e dunque le televisioni potranno anche pagare di meno. E per quello che l'idea di una Lega Europea che ha lanciato qualche presidente, in particolare della Juventus del Napoli, può essere la soluzione per evitare una progressiva marginalizzazione del calcio italiano, ma anche di quello europeo, rispetto ad altri tornei, che potrebbero invece avvantaggiarsi per esempio dalle competizioni internazionali che sono affidate al Brasile, alla Russia, al Qatar nei prossimi anni. È un tema che magari poi affronteremo. Certo. Affronteremo a parte, non in questo momento, perché dobbiamo andare a sentire come funziona il traffico. Prima di congedare Marco Bellinazzo e restituirlo al secondo piano, cioè al Sole 24 Ore, c'è Massimiliano da Padova che ha una domanda per lui. Pronto? Dica. Salve, buongiorno. Volevo parlare sul discorso che quanto riguarda la sicurezza lì degli stadi. Era stata introdotta la famosa tessera del tifoso che sembrava dovesse risolvere tutti i problemi. In realtà ha creato solo disagi alle persone oneste che vanno allo stadio, perché comprare un biglietto è diventato impossibile. Il problema è che se non puoi più andare allo stadio e vuoi rivendere il biglietto è praticamente impossibile, per cui questo è un ottimo deterrente per le persone normali e oneste per andare allo stadio. Mentre i famosi delinquenti, anzi criminali come l'ha chiamato giustamente il suo ospite, vengono regolarmente fatti entrare negli stadi, scortati dalla polizia, da un ingresso in parte, senza perquisizioni, senza niente, per cui in questa maniera non si andrà mai da nessuna parte. Ultima cosa, parlavo con dei miei amici inglesi che mi dicevano che come ha risolto in Inghilterra il problema? Prendendo le persone che hanno creato reati o problemi agli stadi, le hanno arrestati e sono obbligati il giorno della partita a presentarsi in questura, punto. Solamente per cui se queste persone sono in questura durante le partite non possono essere allo stadio a fare danni. Semplicemente questo volevo dire. Ecco. Grazie Marco. Beh, per rispondere si potrebbe citare semplicemente un caso o un elemento di questo quadro di sicurezza che non viene rispettato. In Inghilterra il biglietto nominativo corrisponde anche a un determinato posto nel quale si deve sedere. Quel posto è costantemente ripreso dalle telecamere. Ora, io credo che negli stadi italiani forse in tribuna i posti assegnati vengono in qualche modo rispettati, e dunque riconoscere chi è entrato con il biglietto nominativo e si macchia di determinati episodi di violenza è praticamente impossibile. Credo questo sia, diciamo, un passaggio fondamentale per capire come poi l'applicazione non seria delle regole le dissacra in maniera assoluta. Grazie allora a Marco Bellinazzo. Grazie anche a voi, per oggi. Noi facciamo subito il ripasso di storia affidato il 20 gennaio, affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 20 gennaio 1983. A soli 49 anni muore in un letto d'ospedale di Rio de Janeiro Manuel Francisco dos Santos, detto Garrincha. Se ne va così, consumato dall'alcol e in perfetta solitudine, l'angelo dalle gambe storte, un genio assoluto del calcio, leader del Botafogo con cui ha disputato oltre 600 partite, segnando 245 gol, e trascinatore del Brasile nei successi mondiali del 58 e del 62. In morte di Garrincha, lo scrittore e poeta Carlos Drummond de Andrade ha scritto sulle colonne del Jornal do Brasil: «È stato un povero e piccolo mortale che ha aiutato un paese intero a sublimare le sue tristezze. Il peggio è che le tristezze tornano e non c'è un altro Garrincha disponibile». Magnifico, magnifico questo brano, magnifico il ricordo di un fenomeno assoluto come fu Garrincha. Adesso in Brasile, proprio in questi giorni, c'è un giovane fenomeno, dicono, che lo ricorda, che si chiama Neymar, che gioca nel Santos, ha 18 anni, e nel campionato sudamericano Under 20 ha appena segnato 4 gol in una partita sola in un Brasile-Paraguay, insomma, ricordando in certe movenze Garrincha. In ogni caso, quando, visto che ha la maglia del Santos, visto che appunto si parla di lui come di un grande talento futuro, quando gli hanno chiesto se gli piacerebbe diventare l'erede di Pelé, vista per l'appunto la maglia del Santos, lui ha risposto: beh, insomma, semmai io per caratteristiche mi sento un po' più vicino a Garrincha. Piero da Milano, buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei e al suo ospite. Due domande velocissime. A lei volevo chiedere questo, non so se è d'accordo con me, volevo chiedere un'opinione riguardo a questo cambiamento diciamo, stranissimo che ha avuto Ranieri nell'ultima, io dico forse nell'ultima stagione o nella sua esperienza romana. Cioè, io lo ricordo per anni alla Juve, al Chelsea, cioè una persona tranquilla, con una maniera di dialogare anche con i suoi colleghi, ma anche con gli avversari, una aplomb e una serietà che sinceramente in questo ultimo periodo credo si sia un po' perduta. Cioè questa sua aggressività nei confronti della stampa o questa sua maniera di esprimersi, anche, io dico per carità, nulla ho contro il dialetto romanesco, però dico questo cambiamento così radicale di comportamenti a cosa è dovuto? La tensione romana o cos'altro, o l'effetto Mourinho, diciamo? E poi l'ultima cosa per il suo ospite, io trovo ingiusto che si parli di squalifica del campo per l'Olimpico, ma non perché per l'Olimpico. Io dico, se quello che è successo ieri sera, cioè i bambini ospiti in tribuna, dico, che colpa hanno questi ragazzini che probabilmente alla prossima partita non potranno assistere, o la stessa società Lazio, per cui Lotito forse è una delle persone che più si è esposto contro gli ultra nell'ultimo periodo, e forse pochi l'hanno seguito su quella strada e ha pagato di tasca sua con lo stadio quasi sempre semi vuoto. Dico, perché penalizzare gran parte dei tifosi per il comportamento di persone che oltretutto hanno perpetrato i reati al di fuori dello stadio? Quindi probabilmente di questi signori, se settimana prossima o la prossima partita Lazio e Roma giocheranno fuori, importa ben poco, insomma, tutto qui. Non lo so, no, sinceramente questi sono davvero problemi epocali, tanto una soluzione che possa accontentare tutti, o che possa tener conto senza scontentare tutti in compenso, e che però possa essere davvero efficace non credo ci sia. L'importante sarebbe cominciare a trovarne una, a indicarne una, e quindi non ricadere ogni volta, non ricominciare ogni volta dallo stesso punto. Coltellati, gli agguati, i feriti, gli scontri, i DASPO, veri o presunti, eccetera. E la sensazione comunque è che ci sia un trattamento di riguardo per certe, non società, ma per certe città, perché in questo ragionerei, è un tantino diverso. Il cambiamento di Ranieri è un cambiamento evidentemente sul piano nervoso, la pressione della piazza romana, pur essendo lui romano del testaccio e pur essendo lui romanista, è evidentemente molto forte, ma non c'è dubbio che il Ranieri negli ultimi tempi sia assai meno gradevole da un punto di vista così mediatico di quanto non sia stato in precedenza. Andrea scrive: Ranieri è cambiato da quando ha capito che Ancelotti allenerà la Roma. Beh, insomma, io credo che non sia così, cioè credo che possa essere così dal prossimo anno, però i primi nervosismi erano perché Lippi gli sarebbe subentrato, almeno questo si diceva qualche mese fa, ma secondo me non nasce ancora nemmeno da lì, c'è una serie di concause che evidentemente lo fanno stare, come dire, un po' tanto sul nervo. Ci sarebbero molti messaggi da leggere, perché oggi ne sono arrivati tanti davvero interessanti, però mi spiace che anche oggi il tempo sia già scaduto. Dunque non resta che ringraziare Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanide in redazione, e darvi appuntamento a domani con Carlo Genta. Buon pomeriggio.